La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici, Franco D'Assisti in studio qui a Radio 24 per La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema che tutti i weekend vi tiene compagnia per raccontarvi tutte le novità al cinema e non solo. Una puntata particolare perché segna l'inizio, se vogliamo, della nuova stagione della Rosa Purpurea, la 2009-2010, per dirla in termini calcistici ma anche cinematografici. Ma è anche una puntata di svolta perché siamo in onda in diretta, perché lo faremo per tutta questa nuova stagione, perché cercheremo di dare sempre più spazio anche ai nostri ascoltatori e perché finalmente cominciano ad arrivare anche film di spessore pesante, di peso specifico assoluto nelle nostre sale dopo la lunga estate cinematografica. Allora andiamo a vedere i titoli di testa di questa nostra puntata. Woody Allen torna nella sua New York e firma un film all'altezza della sua storia, Basta che funzioni. Sergio Castellitto, protagonista di Tris di donne e abiti nuziali, fra poco con noi in diretta. Torna il DVD Game, Tre tracce di un film misterioso per vincere tanti DVD e poi ancora i film da recuperare in TV e nella quarta parte della nostra trasmissione. Infine un'iniziativa di cui siamo partner e di cui vi abbiamo parlato già dalla scorsa settimana, The Age of Stupid, il film evento del prossimo 22 settembre nelle sale selezionate di diverse località italiane. Restate all'ascolto per ricevere i biglietti omaggio e partecipare alla prima mondiale del film. Sentite, ve lo dico subito, ok? Io non sono un tipo simpatico. Scacco matto, stupida cimice. Ehi! Mi hanno preso in considerazione per il Nobel per la fisica. Non l'ho ottenuto. Quell'uomo parla da solo. Su, vieni, Justin. Questo non è il miglior film dell'anno. Se siete di quegli idioti che devono sentirsi bene, fatevi fare un massaggio ai piedi. E questo era Larry David, protagonista di Whatever Works, Basta che funzioni, il ritorno di Woody Allen a New York come set cinematografico. Il personaggio che avete sentito, dice, non sono un simpatico, e per questo ci sta simpatico, è Boris Yelnikov, un vecchio acido lasciato dalla moglie, ipocondriaco, convinto di essere un genio, e forse magari lo è anche, solo perché ha sfiorato una candidatura al Nobel per la fisica. Vive da semi-indigente in un vecchio appartamento di Manhattan, ma una sera trova per strada Melody, dorme letteralmente fra i cartoni, è una bella e giovane ragazza del sud che gli fa subito una certa tenerezza. Io sono un uomo con un'ampia visione del mondo, sono circondato da microbi. Scusi, signore. Ehi, ma mio Dio, mi ha spaventato. Mi aiuta a comprare qualcosa da mangiare? Non porto mai soldi, via via via. Quanti anni hai? Ne ho 21. Se tu hai 21 anni, io gioco negli Yankees. Lei è un atleta professionista, così zoppo con me. Oh, signore. Ecco, Melody non spicca certo per cultura e perspicacia, come avete sentito, ma ha dentro una sua forza vitale che sembra far breccia nella corazza del vecchio misantropo. Il film procede veloce, anche nei tempi narrativi. Melody e Boris finiscono con lo sposarsi. In un certo senso la ragazza gli salva la vita. Ma un altro giorno, al campanello di casa Yelnikov, suonano la madre e il padre di Melody e la frittata è fatta. Mamma? Melody Santen, vivi come un povero mezzadro. Ho detto, signore, dammi un segno, basta col silenzio, io non sopporto più altra infelicità. Niente, vero? Con tutti i soldi che metteva nella cassetta tutte le domeniche. Papà? Sono venuto a implorare il perdono da tua madre. Certo che le hai fatto una gran brutta cosa con la sua migliore amica. Signore, ho peccato. Ti prego, perdonami. Ma perché tutti gli psicotici religiosi vengono a casa mia? Comincia un viaggio alla ricerca della verità e della propria identità che non risparmierà nessuno dei protagonisti e farà apparire il perfido Yelnikov come l'unico che ci aveva visto giusto. Lei mi ha lasciato. Ma succede a voi etero? Ma allora tu saresti... È un peccato contro la legge di Dio. Ha fatto tutto l'universo perfetto, gli oceani, i cieli, i bellissimi fiori. Esatto, è un arredatore. Questa è davvero la battuta del secolo per quanto riguarda Woody Allen. Woody Allen di ferro in questo Basta che funzioni, di ferro nella sceneggiatura Orologeria, di ferro nella scelta di attori sconosciuti da noi ma straordinariamente solidi, come appunto il protagonista Larry David e Patricia Clarkson, ma brava anche la giovane Melody di Evan Rachel Wood. Il regista newyorkese ritrova il suo cinismo e la sua voglia di graffiare, recuperando il suo sguardo filosofico sulla vita e sulla morte. Peccato solo non vederlo recitare. Qualunque amore riusciate a dare e ad avere, qualunque felicità riusciate a rubacchiare, qualunque temporanea elargizione di grazia, basta che funzioni. E allora questi erano il racconto e la nostra piccola recensione di Basta che funzioni, Whatever Works, il film di Woody Allen in tante sale italiane, una distribuzione piuttosto capillare, e noi abbiamo anche alcune dichiarazioni di Woody Allen da farvi ascoltare, cominciando proprio dal suo ritorno a New York. Dopo tanti film girati in Europa, sembra essere risbocciato un amore e sicuramente l'alchimia non si è persa nel tempo. Sentiamo Woody Allen. It's great to be back in New York. È fantastico tornare a New York. Ho lavorato all'estero per un periodo perché non potevo permettermi di lavorare quanto avrei voluto. Ora ho un'occasione. Giro il film a New York. Sono di nuovo a New York e mi piace. Ecco, invece sulla genesi del film, sull'idea originale, su come il film si è trasformato come progetto, sentiamo cosa ha detto il regista newyorkese. I wrote it years ago for Ciro Mostel. L'ho scritto anni fa per Ciro Mostel, poi Ciro è morto e io l'ho buttato in un cassetto. E finalmente ho abbastanza soldi per girare un piccolo film a New York. Così ho pensato, chi può farlo? Forse Larry David lo può fare. Allora l'ho chiamato, lui mi ha risposto che non è un attore, non è in grado di recitare, ma io gli ho detto, sono sicuro che tu possa. Alla fine ha recitato 10 volte meglio di quanto avessi sperato. Larry David, Patricia Clarkson, Evan Rachel Wood, abbiamo detto nel cast di questo film. Sulle scelte ancora Woody Allen. I've been making pictures, this is my 40th picture or something. Sono fortunato. Da quando mi sono messo a fare cinema, e questo è forse il mio 40esimo film, ho sempre avuto un gran cast. E questo non è accaduto perché sono io. Di certo non li pago molto. Se ho avuto degli ottimi attori è stato unicamente perché do loro parti in cui non devono fare solo incidenti d'auto o battute da toilette. Possono recitare davvero e questo lo apprezzano. Quindi accettano il ruolo. La rosa purpurea. Ed eccoci alla seconda parte della Rosa Purpura. Abbiamo parlato del film di Woody Allen, Basta che funzioni, la nostra scelta di questa settimana. Tra poco ascolteremo cosa hanno detto gli spettatori fuori dai cinema, però volevo anche raccontarvi una novità di questa nuova stagione della Rosa Purpura, ovvero una rubrica che ovviamente e forzatamente andrà in onda dalla prossima settimana, che si intitola Critico per un minuto, perché abbiamo voluto vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori di esprimersi, di fare i critici appunto per un minuto, perché molto spesso lo spettatore, fra virgolette, comune, anche tutti gli spettatori sono particolari come tutti i gusti, hanno assolutamente cose interessanti da dire quando vedono un film. Allora, se questo weekend, se la prossima settimana andrete al cinema, ebbene, magari segnatevi 5-10 righe, non di più, perché poi non ci sta, e in un minuto potete lasciare la vostra recensione alla segreteria telefonica della Rosa Purpurea, 02-4652-4010, lo ripeto, 02-4652-4010 è il numero di telefono da chiamare. Dopo un minuto la segreteria si chiude automaticamente, quindi cercate di fare uno sforzo di sintesi per essere poi mandati in onda nel corso della puntata successiva. Allora, dicevamo, torniamo a Woody Allen, Whatever Works, il film della settimana. Barbara Righini ha raccolto il parere di alcuni spettatori fuori da una sala milanese. Sì, decisamente mi è piaciuto. Che cosa le è piaciuto? Tutta la storia nell'insieme, è stato un bel filmettino. È un classico racconto di Woody Allen, così simpatico, un po' di ironia ovviamente, tanta ironia, è un quadro simpatico di New York. Tantissimo. Come mai? Dialoghi super intelligenti, gran ritmo, Woody Allen non delude. Vabbè, è tornato Woody Allen, che in fondo il protagonista è un suo alter ego, è tornato lui, qualche bella battuta davvero, finale troppo conciliativo. Beh, è difficile dire un film visto complessivamente, cioè c'è tutta una scena, un discorso coerente dall'inizio alla fine, quindi carino, bellino. Tipico di Woody Allen. Ma a me è piaciuto questo fatto che ci si risolve alla fine, ognuno trova la propria strada. Molto, ma a me piace molto Woody Allen, quindi era normale che mi piacesse. Beh, il dialogo, la concezione che ha della vita, del mondo, della religione, dell'amore, dell'umanità, trovo che è un film intelligentissimo, come sono i suoi generalmente. Tutto. È molto fermo come film perché ci sono solo queste tre persone che si vedono e basta, non c'è movimento, non c'è niente, però è molto autobiografico e molto interessante. Ah, favoloso! Credo che sia uno dei migliori suoi film dell'ultimo periodo. Woody Allen ci riporta sempre alla realtà, nel senso che dice tutto quello che pensiamo ma che magari non ricordiamo di dire. Finalmente ho rivisto un Woody Allen come quello dei primi tempi, questa considerazione sulla vita, questa distanza. Poi cinematograficamente questo discorso di rivolgersi a noi, a coinvolgersi dall'inizio alla fine così. Comunque questo umorismo che ci ha fatto ridere tutto il tempo, dietro il quale c'era profondo visione di una vita tragica nel crollo di tutti i valori, ma con questo messaggio finale molto positivo, insomma. Qui ci sono assegni scoperti, assegni protestati, conti correnti aperti e richiusi, la faccenda delle carte di credito. Vedi. Allora, che ti ha detto la finanziaria? È tutto a posto, me lo danno in prestito. Marco! Tu sei responsabile. Ma chi vuoi imbrogliare con le bugie, le continue stronzate che racconti? Ma hai detto mai la verità tu? Una volta nella vita l'hai detta mai la verità? Fammi una cortesia, gioca di questo tema. Papà, hai promesso a mamma di non giocare più. Ma questi sono numeri vitali, vai. Aspetta, Marilì. Ti aspetto. E queste sono alcune delle situazioni, dei momenti di Tris, di Donne e abiti nuziali, di cui vi abbiamo fatto ascoltare una parte del trailer, uno dei film italiani che arrivano in sala in questo fine settimana. È un film diretto da Vincenzo Terracciano e che ha un protagonista d'assoluto onore, che è Sergio Castellitto, che è qui in collegamento con noi alla Rosa Purpurea. Buonasera Sergio. Buonasera Fra, buonasera a tutti. Ciao Sergio, grazie di essere qui con noi a raccontarci questa tua partecipazione a Tris di Donne e abiti nuziali, sicuramente in corsa per il premio di uno dei titoli più originali dell'anno con questo straordinario e lunghissimo titolo quasi wertmülleriano, potremmo dire. Allora, tu interpreti, Sergio, il ruolo di Franco Campanella, un personaggio un po' sperduto, un po', se vogliamo, borderline, no? In questa Napoli piccolo borghese, una Napoli diversa dalla tradizione cinematografica anche recente, non è vero? Direi di sì, direi che è una Napoli messa in scena più che filmata, nel senso che meno documentaristica, in qualche misura più teatrale, secondo me è vincente proprio per quello, una Napoli tutta in salita, fatta di uscita. Sergio, ti devo interrompere un attimo perché abbiamo problemi di collegamento sulla linea telefonica, per cui è un peccato non riuscire a sentire le dichiarazioni interessanti che sta dando appunto Sergio Castellitto. Adesso cerchiamo di ripristinare il collegamento con l'attore. Chiaramente questo è un momento classico da diretto, ovviamente succede sempre così, quindi torneremo fra poco, appena abbiamo ripristinato il collegamento audio con Sergio Castellitto, a parlare di Tris, di Donne e abiti nuziali. Allora noi andiamo avanti nel frattempo, affrontando magari l'inizio del prossimo film di cui volevamo parlarvi, quella Rosa Purpurea, che si intitola Pelham 1-2-3, Ostaggi Metropolitana. Anche qui un titolo e un sottotitolo per un film che è un remake di un classico del cinema d'azione degli anni 70, ovvero Il colpo della metropolitana. Ascoltiamo la clip. Fate passare il treno R sulla linea espressa all'altezza della 34esima strada. Apri la porta, fallo subito, t'ammazzo. Non ci fuori! E questo era appunto l'inizio di questo trailer, di questo film, un film che vede Tony Scott alla regia e nel cast Denzel Washington nei panni del buono, fra virgolette, e John Travolta nei panni del cattivo. Al centro comandi della Grand Central Station di New York, tutti gli occhi sono puntati sul tabellone. Un treno locale, appunto il Pelham 1-2-3, è fermo in galleria tra la 28esima e la 23esima strada, apparentemente senza motivo. Controllo chiama Pelham 1-2-3. Perché ti sei fermato? Hai il segnale verde. Centrale di controllo, mi sentite? Chi sei? Sono quello che farà sputare un po' di soldi a questa città. Allora, qual è il prezzo degli ostaggi di New York stamattina? Che dici, 1 milione a cranio è troppo alto? Io non sono autorizzato a negoziare. Oh, secondo me tu sei perfetto. Fra 59 minuti comincio a uccidere i passeggeri. Che fate, pagate? E questo quindi il momento in cui il film svolta. Un gruppo criminale cappeggiato dallo spietato Ryder, appunto John Travolta, ha dirottato il treno e minaccia di uccidere tutti i passeggeri, uno al minuto, se non gli verrà consegnata la cifra di $1 milione. È il tenente Garber, appunto Denzel Washington, a prendere in mano la situazione, uomo chiave della sicurezza pubblica della città, che conosce a menadito il sistema metropolitano di Manhattan. Non ci vuole mica tanto. Devono solo fare quello che dico io. Chiama il sindaco, subito. Qualcuno ha sequestrato il Pelham 1-2-3. Ti pare che sia destino tra te e me? Io sono uno qualunque che sta dall'altra parte del microfono. E tu mi piaci davvero. Forse sarai l'ultimo con cui faccio amicizia. Un film d'azione quindi dove New York torna protagonista. Prima lo abbiamo sentito già nel film di Woody Allen, qui come insostituibile set per questo action movie. Per Denzel Washington New York non è solo uno sfondo. Well, it's almost like a character, you know, as the director will tell you. Beh, sì, è quasi come un personaggio, te lo dirà anche il regista. La città ha un ruolo centrale, il ritmo di New York, lo spirito della gente. Prima sulla superficie, quando sono nel palazzo dell'MTA, la metropolitana di New York, e poi tutta la parte che si svolge sottoterra con John, quando anch'io scendo lì sotto. Sì, in fin dei conti è come fosse un personaggio la città. It's like a character in the film. Ed eccoci quindi ancora insieme, abbiamo parlato di Pelham 1, 2 e 3, nel frattempo abbiamo ricostituito il collegamento telefonico con Sergio Castellito che è di nuovo con noi. Sergio, eccoci qua. Eccoci qua, meglio. Ah, adesso ti sentiamo splendidamente, grazie di essere stato paziente e di averci riproposto la tua presenza qui. Stavamo parlando di questa Napoli in Tris di donne e abiti nuziali di Vincenzo Terracciano, un po' particolare, il mare si vede poco, non c'è molta collina. Una Napoli in salita, dicevamo, una Napoli più messa in scena che filmata. Io ho personalmente, è un film che ho amato molto ed attraverso il film ho cercato umilmente di fare un omaggio a quei grandi attori italiani che sono anche stati degli scrittori, penso a De Sica che ha recitato e ha scritto, penso a De Filippo, Edoardo e gli altri che hanno recitato e hanno scritto, penso a Pietro Germi, ecco. Ecco, siccome io poi considero come si dice, la recitazione una delle forme della scrittura, ho voluto fare un omaggio, c'è un delizioso inseguimento fra lui e un altro personaggio nel film, insomma sembra veramente un inseguimento fra Totò e De Sica, con tutto il rispetto naturalmente per gli assenti. Ma il film secondo me è delizioso, è francamente delizioso perché fa sorridere, fa ridere e nello stesso tempo non si fa mancare anche come dire, l'emozione, una certa malinconia che come tutti sappiamo fa grande la commedia. Ecco Sergio, hai proprio citato un nome che io avrei scomodato, avevo quasi paura a farlo, ma l'hai fatto tu quindi io mi sento più tranquillo. Volevo proprio chiederti questo, cioè il personaggio sembra un po' affondare le radici nelle due anime nobili del cinema italiano, da una parte un pizzico di neorealismo perché quello delle persone che si rovinano col gioco è un preoccupante fenomeno sociale contemporaneo, certo. Poi c'è anche la commedia all'italiana perché il tono di questo personaggio un po' lieve, un po' amaro, a me ha ricordato proprio in certi momenti alcune maschere di Totò. Certo, è vero, e beh, insomma è quello che ti dicevo infatti, è proprio l'omaggio affettuoso a questi giganti che hanno fatto grande il cinema italiano, che l'hanno fatto grande attraverso la commedia, una commedia che è sempre stata recitata in dialetto, a scorno di chi pensa che il dialetto sia qualcosa che non vada usato nel cinema. Senti, il tuo nome, Sergio, accresce sicuramente il peso della locandina. Quanto possono fare, ti voglio chiedere, gli attori della tua generazione e della tua popolarità per aiutare l'emergere di registi magari poco conosciuti, come in questo caso Vincenzo Terracciano, e quello che possono fare, secondo te lo fanno? Guarda, stando proprio diciamo all'argomento del film, direi, rubando la battuta, potrei dire che ogni uscita di film è davvero un terno al lotto, cioè l'uscita di un film lavora su talmente tanti versanti e talmente tante intenzioni diverse, addirittura il clima, le altre uscite, quindi non si sa mai che cosa succederà. Io sono estremamente fiducioso perché il film è stato presentato a Venezia in una sezione parallela proprio perché in qualche modo forse gli organizzatori di Venezia non lo consideravano un film da festival nel senso del concorso e quindi un po' troppo popolare e questo mi fa molto piacere. Quello che possiamo fare noi è dei bei film, molto semplice. Senti, dei film, io personalmente parlo per me, io tendo a lavorare, a fare i film che andrei volentieri a vedere perché sono rimasto uno spettatore basico, abbastanza semplice, abbastanza lineare, per cui tendo a fare le cose che mi piacerebbe andare a vedere. Questa è un po' l'intenzione, secondo me è l'intenzione più sana che chi fa il cinema, cineasti o registi o attori o chiunque altro debba avere, insomma. E allora ricordiamo Tristi donne abiti nuziali nelle sale cinematografiche italiane, grazie a Sergio Castellito per questa sua partecipazione alla Rosa Purpurea. A te, a voi, a tutti. Grazie ancora allora Sergio, noi abbiamo il tempo di lanciare la prima finestra, di aprire la prima finestra sul DVD Game, è una tradizione della Rosa Purpurea, tre tracce di un film misterioso fino a quando almeno voi non lo indovinate. Andiamo ad ascoltare la prima. Tu non lo capisci, vero? Questa città dipende dalla miniera. Tutti quanti qui, dai minatori alle cassiere dei supermercati. Io non ho responsabilità. Sì, ne hai. Tu sei fuggito 10 anni fa, noi siamo rimasti a rincollare i pezzi. Noi siamo rimasti uniti. Avete già indovinato di che film si tratta? Scrivetecelo a larosapurpurea@radio24.it per vincere il DVD proprio di questo film. Più tardi però ci saranno altre due possibilità per partecipare. La Rosa Purpurea. Welcome to the Global Archive, a vast storage structure located 800 km north of Norway. It contains the artwork from every national museum. Every film, every book, every scientific report, all stored on banks of servers. The amazing thing is, we had the chance to avert this. I mean, the conditions we are experiencing now were actually caused by our behavior in the period leading up to 2015. Quelle che avete sentito sono alcune parole dei dialoghi di The Age of Stupid, un film, un evento a cui Radio 24 e anche La Rosa Purpurea, ovviamente come settimanale di cinema, hanno dato la loro adesione. 45 paesi per 550 sale cinematografiche collegate contemporaneamente in tutto il mondo. The Age of Stupid è il primo film evento della storia del cinema e in Italia sarà trasmesso, possiamo dire, in diretta via satellite in alta definizione il 22 settembre, ovvero martedì prossimo alle 19 nelle seguenti sale cinematografiche. State molto attenti se abitate in zone che noi stiamo per citare: il Cinema Ariston di Sanremo, il Cineplex Porto Antico di Genova, il Nuovo Cinema Aquila di Roma, il Politeama Frascati, il Cine City di Mantova, il Tiberio di Rimini, il Nuovo Cinema Teatro di Abate Guazzone, provincia di Varese, il Cinema Giovanni Paolo II di Agnosine, provincia di Brescia, e il Cinema Nuovo di Lioni in provincia di Avellino. Ci piace anche il fatto che ci sia questa capillarità di diffusione di queste sale che sono spesso in piccoli paesi di provincia, che aderiscono però a un'iniziativa molto importante, perché questo è un film di grande importanza. Pete Postlewhite, avete sentito l'attore che recitava prima, uno straordinario attore di tanto e del migliore cinema inglese, è un film che racconta di come la Terra, lo racconta con sguardo retrospettivo, di come la Terra si sia sostanzialmente autodistrutta e di come però un presidio dell'umanità cerchi di salvare il salvabile, ovvero tutta la conoscenza. Insomma, un cinema, un film di ampio impatto ambientalista e con una visione del mondo che cerca di andare oltre i 2012 e compagnia, che ci raccontano come ci distruggeremo. Forse qui ci raccontiamo come ci salveremo. Per partecipare a questa straordinaria visione collettiva dovete semplicemente inviare un SMS al numero 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666 per partecipare appunto alla visione gratuita, ovviamente, di questo film. Ovviamente abbiamo un numero limitato di biglietti, ce ne sono 14 a disposizione anche questa settimana dei nostri ascoltatori. Fate il possibile, sia che ci stiate ascoltando di sabato, sia che ci stiate ascoltando di domenica, per intervenire a questa straordinaria prima mondiale. Ricordatevi di inserire nell'SMS il vostro nome, cognome e numero di telefono, ovviamente, per essere ricontattati. Questo è The Age of Stupid, ne parleremo ancora nel corso della nostra trasmissione. Adesso noi andiamo avanti con invece uno spazio dedicato a due grandi che non ci sono più, che ci hanno lasciato durante questa settimana. Sono due personaggi assai diversi per generazione, per ruolo anche all'interno del mondo del cinema. Parliamo di Patrick Swayze, di cui abbiamo pronta una clip del suo film più celebre, ovvero Ghost, e di Luciano Emmer, invece il regista di film come Le ragazze di Piazza di Spagna, Terza Liceo, eccetera. Se ne sono andati a poche ore di distanza. Noi li vogliamo ricordare cercando di capire cosa possiamo recuperare della loro arte cinematografica. Cominciamo però ad ascoltare proprio un passaggio in originale, perché volevamo farvi sentire proprio la voce di Patrick Swayze di Ghost. Molly, New York Times is just some frustrated little critic with pimples on his ass who flunked out of art school, so who cares what they think? 8 million readers, that's it. Yeah, they're just reading the sports page. Your work is really beautiful. And it shouldn't matter what anyone else thinks, just what I think. I want to marry you, Sam. What? What? Yep. I've been thinking about it. I'm thinking about it a lot. And I think we should just do it. You're serious? Yeah. La voce di Patrick Swayze, le musiche, le dolci note di Ghost, l'altra è ovviamente Demi Moore, l'avete riconosciuta nella versione originale, perché ripeto, volevamo farvi ascoltare chissà se per l'ultima volta, insomma, almeno radiofonicamente. La voce di questo attore che ha combattuto tanto con la malattia e si è spento nel corso di questa settimana, ma addio anche a Luciano Emmer, 91 anni, cinematograficamente portati benissimo, Le ragazze di Piazza di Spagna, Terza liceo, Domenica d'agosto, tanti film, delle migliori commedie che hanno fatto un po' da tramite proprio fra quel neorealismo e quella commedia italiana di cui parlavamo prima con Sergio Castellitto. Ebbene, anche Luciano Emmer ci ha lasciato, è stato un grandissimo autore, per esempio pubblicitario, alcuni dei più bei caroselli degli anni 60 sono stati suoi. Come possiamo ricordarli? Come possiamo recuperarne il lavoro? Lo chiediamo a Claudio Poffi, che è in collegamento con noi e che abbiamo un attimo estrapolato dal suo spazio, che sarà fra poco quello dedicato ai DVD. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, in effetti questi due artisti del cinema si possono recuperare sicuramente in un video. Iniziamo con il nostro Luciano Emmer, delle sue 21 opere, almeno di quelle che sono segnalate tra le più importanti a cui ha partecipato il regista, purtroppo in un video ne troviamo solo 6. Le enuncio velocemente: Le ragazze di Piazza di Spagna, Domenica d'agosto, Il momento più bello, Parigi è sempre Parigi, L'acqua e il fuoco e Una lunga, lunga, lunga notte d'amore. Purtroppo da questo punto di vista devo dire che non c'è stata grandissima attenzione da parte dell'on video nei confronti del nostro regista. Per quanto riguarda invece Patrick Swayze, abbiamo sentito Ghost, beh, sicuramente quello è recuperabile a tutte le latitudini, no? Beh, quello assolutamente. Ghost assieme a Dirty Dancing sono gli unici due film, oltre a essere disponibili in DVD, si possono recuperare anche in Blu-ray in alta definizione. E in questo caso per Patrick Swayze direi che abbiamo più fortuna nell'ambito dell'on video, sono veramente tante le opere recuperabili a cui ha partecipato l'attore americano. Ricordo Alba Rossa, film bellico dell'84 di John Milius, Letters from a Killer, un thriller dove lui interpreta questo scarcerato che subisce misteriose minacce di morte. Ci sono diversi action, tra cui Il duro del Roadhouse del 1989, piuttosto che Black Dog del 1998, tra l'altro più difficile da trovare in un video perché è segnalato come fuori catalogo. Ha partecipato Swayze a una meravigliosa commedia agrodolce che si intitolava A Wong Fu, grazie di tutto Julie Newmar, dove si rimetteva veramente in gioco assieme a Wesley Snipes e a John Leguizamo, interpretando il ruolo di una drag queen. Indimenticabile assolutamente di Catherine Bigelow, Point Break, Punto di rottura, dove interpreta questo surfista, paracadutista, rapinatore di banche. Ci sono purtroppo dei grandi assenti in un video, almeno in Italia, due sopra tutti, sicuramente I ragazzi della 56esima strada di Francis Ford Coppola del 1983, che purtroppo in Italia in DVD non si riesce a trovare, è disponibile ad esempio all'estero come in America in un'edizione a due dischi in cui addirittura Swayze partecipò con un commento al film, e in ultimo sicuramente La città della gioia di Roland Joffé del 1992, dove interpretava questo brillante medico americano che finisce in una crisi spirituale, appunto, da abbandonare il lavoro, partire per l'India alla ricerca di una ragione di vita. Bene, allora Claudio, tu rimani con noi perché fra poco parliamo delle recensioni appunto in DVD. Noi a questo punto invece, a proposito di DVD, andiamo a sentire la seconda traccia del film misterioso di questa settimana per il nostro DVD Game. Harry Warden è morto. Gli ho sparato io, lo saprò, no? Sarà un emulatore, uno psicopatico. Non è rimasto sepolto nel crollo. Non hanno mai trovato il suo corpo, a dispetto dei rapporti ufficiali. Ma dai. La Rosa Purpurea @radio24.it, ve lo ricordo sempre l'indirizzo di posta elettronica per indovinare di che film si tratta e vincerne appunto il DVD. Ovviamente vincitori, non i vinti perché sono troppi, ma i vincitori almeno saranno annunciati la prossima settimana. A questo punto noi andiamo a una nostra invece rubrica, un'altra rubrica che ritroviamo dopo la lunga pausa estiva, che è Trailer USA, la nostra rubrica che tutte le settimane, attraverso i suoni originali dei film e dei trailer americani, vi dà uno spaccato delle novità che stanno uscendo in America, quando ancora appunto in Italia non sono spesso nemmeno annunciate le date di uscita. Oggi parliamo di una commedia che negli Stati Uniti ha già conquistato la critica, anche se gli incassi, va detto, non sono stati esaltanti, almeno per ora. Si intitola My One and Only, con René Zellweger. Il film è un road movie dai toni ottimistici, ispirato all'adolescenza dell'attore George Hamilton, che fu un attore americano di tanti melò, come A casa dopo l'uragano di Vincent Minnelli. Pennelli piuttosto che Ossessione amorosa di Preston Sturges. Protagonista, dicevamo, un'eccentrica Renée Zellweger e uno scanzonato e divertente Kevin Bacon, che ritroviamo molto volentieri. A raccontarci il film con i suoni del trailer originale c'è la nostra Michaela Bellisario, che saluto. Allora Michaela, entriamo dentro la trama del film. Sì, come dicevi Franco, il film è ispirato alla vita dell'attore George Hamilton, a un episodio in particolare della sua adolescenza molto movimentata. La madre di Punto in Bianco, dopo l'ennesimo tradimento, decide di lasciare il marito direttore d'orchestra, se ne va di casa con i due figli, il Robbie che vuole fare l'attore e appunto George che, pur essendo ancora giovane, cerca di fare un po' le del saggio di famiglia. La madre di George Hamilton ovviamente è una squinternata, si chiama Anne, che si caccerà in situazioni imbarazzanti, in effetti senza volerlo, con l'unico scopo di trovare un marito e sistemarsi. Dobbiamo ricordare che siamo negli anni 50. Nel passo del trailer che sentirete adesso, proprio il momento in cui Anne scopre il marito a letto con l'ennesima amante non fa una piega, ma gli annuncia appunto che se ne andrà. Please, don't get up. This isn't what it looks like. Of course it's what it looks like, Sherry. My wife's not an idiot. What are you doing with that suitcase? I'm leaving you. Well, what about the boys? Boys? Yeah, George, Robbie. We're out of here faster than a cat in a rainstorm. Tra un'avventura e l'altra, George conoscerà tanti futuri papà, insomma tanti candidati mariti, da Kevin Bacon, leader di una band di cui si innamorerà sua madre, e Chris Knott, che invece è un militare in pensione senza soldi, che a malapena riesce a pagare i conti di questa sconclusionata famiglia. Il finale, comunque ve lo diciamo, all'happy end, arriverà una specie insomma di principe azzurro, ma la strada per arrivare al matrimonio sarà bella lunga. Ovviamente a livello economico ci saranno alti e bassi, e la madre di George Hamilton si ritroverà anche cameriera in una caffetteria dove si ritrova assalita dai clienti di passaggio. In questa scena che adesso sentirete, versa una tazza di caffè bollente addosso a un uomo un po' troppo audace. We only have $67 left. I'm getting a job. The kind of job that entails working? Where's my coffee, sweet thing? Yeah. E allora, questo è un po' il contenuto dei trailer originali di questo film, My One and Only. Il regista è Richard Loncrane, lo ricorderete forse per Riccardo III, che sembra essere stato il primo a divertirsi appunto dietro la macchina da presa, grazie all'ottima intesa con Renée Zellweger, che ha un po' l'aspetto di una pin-up decadente. La data italiana di uscita ancora non c'è, mentre negli Stati Uniti il film è in sala dal 28 agosto. Un saluto a Michaela Bellisario. Bene, ciao Franco, alla prossima settimana e un saluto agli ascoltatori. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, della nuova Rosa Purpurea, l'abbiamo intitolata Nuovo Cinema Casa Mia, volendo fare un po' il verso al film di Tornatore, perché oltre all'home video di cui ci occupiamo da sempre, abbiamo voluto aggiungere un altro modo, spesso unico ed efficace sicuramente, per recuperare film altrimenti impossibili da trovare nel mercato home video, ovvero la videoregistrazione domestica, la fruizione di film davanti al piccolo schermo. Ne parleremo tra poco, prima però riattiviamo il collegamento con Claudio Pofi, che avevamo scomodato per raccontarci Patrick Schweizi e Luciano Emery in un video. Claudio, eccoci alle segnalazioni, alle novità in DVD, ci sei? Sì, sono pronto. Eccoti qua. Allora, ricominciamo con un settembre pieno di novità, con alcuni film molto importanti. Ne abbiamo scelti tre in questo fine settimana da raccontare appunto nella loro uscita on video. Lo facciamo cominciando da un film che proprio un anno fa, di questi tempi, sbancava Venezia anche senza vincere il Leone d'Oro, perché poi ci sono vincitori reali e vincitori morali. L'anno scorso il film di Venezia fu The Wrestler, non c'è assolutamente nulla da dire, andò assolutamente bene al di là del premio a Mickey Rourke per la migliore interpretazione maschile. Un film toccante sull'umanità di un'America sconfitta. Ascoltiamo la clip. Ehi, hey, Rem. Ehi, hey, ciao. Allora, come andiamo? Ciao, io sono Tommy. Sono contro di te stasera. Ti conosco, Tommy. Ti ho visto in Pennsylvania un paio di mesi fa. Ad Allentown. Sei stato forte, ci sai fare. Grazie. Continua così, amico. Sai, quelli con le Cadillac che gestiscono il business se ne fregano del talento, quindi tieni duro. Sì, lo so. Ok. Ma invece questa sera non so tu che vuoi fare. Io avrei qualche idea. Pensavo, sai, per scatenarli un po' potrei darti un colpo basso seguito da un bulldog. Tu fatti odiare e basta. Tu puoi contrattaccare subito dopo. Mi butto contro le corde, super calcio volante, ram jam e andiamo a farci una birra. Mi sembra perfetto. Ok, non mollare, hai molto talento. Ed eccolo, Randy The Ram Robinson, il personaggio interpretato da Mickey Rourke, stella del wrestling negli anni Ottanta, a distanza di 20 anni si ritrova spiantato, senza un futuro, alterna gli antichi echi della gloria sul ring con una vita di solitudine, opera mirabile del regista Darren Aronofsky, interpretazione sicuramente di una vita per un indimenticabile malinconico Mickey Rourke. Il film arriva sia in DVD che in Blu-ray di altissima qualità entrambi. Segnalo per gli extra degli interessanti approfondimenti, tra cui un making of, l'intervista all'attore Mickey Rourke, le immagini della Leone d'Oro a Venezia e una tavola rotonda con i veri combattenti del wrestling. Seconda segnalazione è uno dei film più originali della scorsa stagione, Disastro Hollywood, un film sul cinema visto dal di dentro di questo tritacarne chiamato appunto Hollywood. Un passaggio del film, poi il commento di Claudio Pofi. Ho bruciato 25 milioni di dollari in passato. Altri 25 posso anche riperderli. Siamo riusciti a elaborare una relazione dettagliata per te, molto dettagliata. Se farai il lavoro che va fatto, riuscirò, credo, a diminuire la perdita di 15 milioni di dollari. Quindi mi stai chiedendo di sventrare il mio film perché tu possa perdere un po' meno soldi? Te ne sarei molto grata. Ma non posso farlo! Lasciaci riflettere un secondo. No, senti, il cane muore! Non rendiamo le cose più imbarazzanti di quanto non siano. Tu sei bravo, aggiustalo. Ma non è rotto. Dirige Barry Levinson, il racconto di 2 settimane nella vita di Ben, questo produttore hollywoodiano, in questo caso interpretato da Robert De Niro, non più potente e influente come una volta, costretto a confrontarsi con il secondo divorzio, ma anche e soprattutto con gli ostacoli a 2 importanti progetti cinematografici, commedia brillante e divertente che mostra l'altra faccia del dorato mondo di Hollywood. Il film è disponibile al momento unicamente in DVD, la qualità è assolutamente notevole, non segnaliamo nulla di particolare dal punto di vista tecnico. Tra gli extra, sicuramente il racconto dei veri problemi affrontati dai veri produttori di Hollywood, 30 minuti di casting, altra mezz'ora di analisi sulla trasposizione dal libro al film e soprattutto il commento a tutto il film del regista Barry Levinson assieme allo scrittore e produttore Art Linson. E noi andiamo invece per finire le nostre segnalazioni in DVD a un thriller psicologico che sfocia nell'horror, si intitola The Uninvited. Una ragazza torna a casa dall'ospedale psichiatrico, scopre che il padre si è fidanzato con l'infermiera che teneva in cura la madre malata e, diciamo così, non la prenderà bene. Sentiamo. Rachel aveva la serata libera quando è successo. Che coincidenza. Alex, ora che ci ripenso torna tutto. Ha lasciato lì la mamma. È uscita, è andata a parcheggiare la macchina in fondo alla strada ed è tornata a piedi alla dépendance. Non trarre conclusioni affrettate. Non sono io quella che ha visto la mamma morta puntare il dito contro la nuova donna di papà. Già, ma forse è stato solo un sogno. Anna, eri perfettamente sveglia, ti ho visto. Allora mi sarò immaginata tutto. Sì, può darsi. Ma c'è una cosa di cui entrambe siamo sicure. Quel rubinetto non perdeva. L'ha aperto Rachel. Ha ucciso lei la mamma, non le permetterò di passarla liscia. Ecco, spetterà proprio ad Anna convincere il padre, ricollegandomi al racconto della trama che hai fatto tu, Franco, convincere padre delle malefiche intenzioni di questa donna, convincerlo che Rachel non è la persona che finge di essere. Thriller horror dalle tinte sicuramente molto molto forti, arriva da Paramount al momento solo in DVD, qualità assolutamente ottima. Per gli extra segnalo 20 minuti di approfondimento sulla lavorazione, 4 scene inedite e molto interessante il finale alternativo. Grazie Claudio Pofi, grazie per averci raccontato le novità in DVD e anche per averci raccontato cosa recuperare di Patrick Swayze e di Luciano Emmer. Del resto proprio la funzione di recupero del grande cinema è quella che noi riconosciamo all'home video e da questa stagione della Rosa Purpurea anche alla televisione. Grazie ancora Claudio, alla prossima settimana. A presto, un saluto. E siamo arrivati all'ultima traccia del DVD Game di questa settimana. Vi ricordo che si vince il Blu-ray del film misterioso. Questo è importante stabilirlo, anche se ormai il Blu-ray si sta diffondendo e forse questo sarà davvero l'autunno-inverno della definitiva esplosione di questo formato ad alta definizione. Noi lo diciamo perché chi partecipa sappia appunto che riceverà il cofanetto azzurro. Ascoltiamo la clip. Ascoltate, non sappiamo cosa abbia provocato il crollo. I nostri ragazzi stavano lavorando in fondo alla Galleria 5 quando ha ceduto. Posso però assicurarvi che qui alle miniere Henniger stiamo facendo tutto il possibile per tirarli fuori vivi. Calma, signori, calma! È solo un colloquio di routine. Tom è stato l'ultimo a lasciare la miniera quella sera. Forse può aiutarci a fare luce sull'accaduto. La Rosa Purpurea @radio24.it per provare a vincere il Blu-ray di questo film, se lo avete ovviamente indovinato. E a questo punto noi andiamo avanti, andiamo in questa seconda anima, quella appunto televisiva di questa parte della nostra puntata, della nostra trasmissione intitolata Nuovo Cinema a Casa Mia, i nostri minuti di recupero. Così abbiamo voluto ribattezzare questi ultimi scampoli di Rosa Purpurea dedicati proprio ai recuperi di grandi film svisti o perduti attraverso il piccolo schermo, che per una volta può essere un alleato del buon cinefilo. Un ponte quindi sulla programmazione televisiva della prossima settimana alla ricerca di un film da vedere, rivedere o registrare. Ad aiutare in questa ricerca da rabdomanti del video, anche digitale terrestre, purché gratuito ovviamente, saranno gli amici e colleghi del settimanale Film TV, che già nella testata rivela la sua vocazione a rendere utile il piccolo schermo attraverso i film. È con noi Claudio Bartolini, che saluto. Ciao Claudio. Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora Claudio, abbiamo scelto per questa premiere della nostra piccola rubrica, della nostra piccola collaborazione, una notte dedicata a un regista che è stato uno dei maestri indiscussi dell'horror in Italia, ovvero Lucio Fulci. Tutto questo avverrà la sera di lunedì 21 settembre sul canale Iris, quindi digitale terrestre, ma a disposizione di tutti. Spiegaci perché è importante, quali sono i film ovviamente, e perché è importante recuperarli. Si tratta innanzitutto di Sette notti in nero, che è un thriller datato 77, e di L'aldilà e tu vivrai nel terrore, che è invece un horror, che sarà a mezzanotte 10. Ecco, il senso di questa operazione è un po' di riportare alla luce due capostipiti del cinema italiano cosiddetto di serie B, e in particolare di un autore che ha fatto un po' la storia di questa nicchia cinematografica. Ecco, in particolar modo L'aldilà è un horror che si caratterizza per una ricerca proprio d'autore all'interno di un genere che del cinema d'autore in teoria dovrebbe avere ben poco, visto che si tratta di un film fatto a basso costo, con effetti speciali molto, molto artigianali, molto carnali, e che non proprio per questo motivo si può permettere licenze stilistiche, tematiche e anche appunto pulp, diciamo, che i film cosiddetti della serie A cinematografica non potrebbero avere. Ecco, Fulci ha al suo attivo una produzione filmografica sterminata, più di 50 titoli che spaziano dall'horror al thriller, alla commedia, al western, e poi appunto importante perché riesce a realizzare questa tetralogia sui morti viventi tra il 1978 e il 1981, che comprende oltre all'aldilà anche Zombie 2, che è il cosiddetto seguito del famoso film di Giorgio Romero, Paura nella città dei morti viventi e Quella villa accanto al cimitero. E che siamo in chiusura della nostra Rosa Purpurea. Il tempo di ricordare allora l'appuntamento il 22 settembre alle ore 19 con The Age of Stupid, l'evento in diretta contemporanea mondiale per questo film, questa anteprima mondiale di un film assolutamente ambientalista, direttamente dal Central Park di New York. Vi ricordo ancora che ci sono ancora dei biglietti a disposizione, 349 238 6666. Il film verrà proiettato nelle seguenti sale: l'Ariston di Sanremo, il Cineplex Porto Antico di Genova, il Nuovo Cinema Aquila di Roma, il Politeama di Frascati, il Cine City di Mantova, il Tiberio di Rimini, il Nuovo Cinema Teatro di Abbiate Guazzone, provincia di Varese, il Giovanni Paolo II di Agnosine, provincia di Brescia, e il Nuovo di Lioni, provincia di Avellino. 349 238 6666, basta scrivere per partecipare a questa anteprima mondiale di The Age of Stupid. Io vi ricordo ancora anche il numero di segreteria telefonica 0246 52 40 10 02 46 52 40 10, per partecipare a Critici per un Minuto. Scriveteci, anzi leggeteci la vostra recensione di un film che avete visto in questo prossimo fine settimana o durante la prossima settimana. Le migliori andranno in onda nella prossima puntata della Rosa Purpurea, che sarà qui su Radio 24 come sempre il sabato alle 18 e la domenica in replica alle 9 del mattino. Un saluto da Franco D'Assisti.